Il terzo anello, ad alta voce, Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Con la lettura della scorsa puntata avevamo terminato il terzo libro, che si conclude col racconto relativo a Pierre che medita niente meno di uccidere Napoleone. E in mezzo al marasma di una Mosca deserta e pervasa da un terribile odore di bruciato a causa degli incendi, Pierre, nel tentativo di difendere una donna dall'aggressione di un soldato francese, viene arrestato nella confusione e accusato di essere un incendiario. Intanto a Pietroburgo la vita scorre apparentemente immutata e mentre Mosca è in preda ai saccheggi e agli incendi, là sembra invece tutto come sempre, soprattutto negli ambienti elevati. Anna Pavlovna continua a dare le sue serate politico-mondane, adesso è tutta presa dallo scopo di risvegliare lo spirito patriottico in quegli aristocratici che sono colpevoli, secondo lei, per esempio, di continuare a frequentare il teatro francese. Due notizie animano in quei giorni le conversazioni dell'alta società di Pietroburgo. La prima è quella relativa alla battaglia di Borodino e al successo riportatovi dai russi, che viene ingigantito fino a diventare la voce di una cattura dello stesso Napoleone. E la seconda è quella della morte improvvisa e inaspettata di Elena Vesukova. Questa morte in realtà resta un po' avvolta nel mistero. Si parla di angina, si parla della tremenda malattia il cui nome, dice Tolstoi, era così piacevole a pronunciare. C'è anche chi parla dell'assunzione eccessiva di certi farmaci e quindi ci sarebbe da pensare forse a un suicidio, tanto imprevisto e imprevedibile quanto davvero lontano dal carattere della donna, così almeno come Tolstoi ce l'ha finora presentata. Insomma, l'autore lascia del tutto insoddisfatta la nostra curiosità. Evidentemente Tolstoi preferisce seguire le vicende di Pierre, di un personaggio cioè che è suscettibile, a differenza di Hélène, di una crescita interiore e di uno sviluppo spirituale. Un incontro che aprirà a Pierre nuovi orizzonti nella sua filosofia della vita è, durante la sua prigionia, quello con Platon Karatayev. Nella baracca dove era andato Pierre e dove passò 4 settimane c'erano 23 soldati prigionieri, 3 ufficiali e 2 funzionari. Più tardi tutti costoro apparivano a Pierre come in una nebbia, ma Platon Karatayev rimase per sempre nell'animo di Pierre come il ricordo più forte e più caro e come la personificazione di quanto c'è di russo, di buono e di schietto. Platon Karatayev doveva avere oltre 50 anni, a giudicare dai suoi racconti delle campagne alle quali aveva partecipato da soldato molto tempo prima. Egli stesso non sapeva e nessuno avrebbe potuto precisare quanti anni avesse. Ma i suoi denti bianchissimi e forti, che si mostravano tutti nei loro 2 semicerchi quando rideva, come faceva spesso, erano tutti belli e sani. Non aveva neppure un pelo bianco nella barba e nei capelli e tutto il suo corpo appariva agile e soprattutto fermo e resistente. Il suo viso, malgrado le piccole rughe rotonde, aveva un'espressione di innocenza e di giovinezza. La voce era simpatica e melodiosa, ma la principale particolarità dei suoi discorsi erano la franchezza e la praticità. Le sue forze fisiche e la sua prontezza erano tali che, nei primi tempi della sua prigionia, pareva che non capisse che cosa fosse stanchezza o malattia. Ogni giorno, la mattina e la sera, nell'andare a letto, diceva «Signore, fammi giacere come un sasso e fammi alzare come una pagnottella». La mattina, alzandosi e scuotendo le spalle sempre allo stesso modo, diceva «Mi sdraio e mi raggomitolo, mi alzo e mi scrollo». E difatti, bastava che si sdraiasse perché subito si addormentasse come una pietra. E bastava che si desse una scrollata perché subito, senza perdere un istante, si mettesse a un lavoro qualunque, come i ragazzi che, appena alzati, tornano ai loro giocattoli. Egli sapeva far tutto, non molto bene, ma neppure male. Cucinava, faceva il pane, cuciva, faceva il falegname, faceva il calzolaio. Era sempre occupato e solo di notte si permetteva di chiacchierare, cosa che gli piaceva molto, e di cantare. Ogni parola, ogni atto era per lui una manifestazione di quell'attività a lui ignota che era la sua vita. Ma la sua vita, come egli stesso la riguardava, non aveva senso in quanto vita isolata. Aveva un senso soltanto come particella di un tutto, che egli sentiva di continuo. Le sue parole e i suoi atti sgorgavano da lui con la stessa regolarità, necessità e immediatezza con cui il profumo emana dal fiore. Egli non poteva capire né il valore né il senso di un'azione o di una parola prese isolatamente. Intanto la principessina Maria, la cui simpatia per Nikolaj Rostov si sta tingendo ormai di sentimenti amorosi, peraltro ricambiati dal giovane e intuiti dalla povera Sonia, che in una lettera accorata restituisce al cugino tutta la sua libertà, la principessina Maria, dicevo, si mette in viaggio per raggiungere il fratello che, insieme ai Rostov, adesso si trova a Yaroslav. Appena Natascia, che sedeva al capezzale del principe Andrei, aveva saputo dell'arrivo della principessina Maria, era uscita pian piano dalla stanza con quei rapidi passi che erano parsi allegri alla principessina Maria ed era corsa da lei. Sul suo viso sconvolto, quando era entrata correndo nel salotto, c'era soltanto una espressione. Espressione di amore infinito per lui, per lei, per tutto ciò che toccava da vicino l'uomo amato. Espressione di pietà, di dolore per gli altri, di appassionato desiderio di darsi tutta per aiutarli. Si vedeva che in quel momento neppure un pensiero di sé, dei suoi rapporti con lui, era nell'anima di Natascia. La sensibile principessina Maria, fin dal primo sguardo gettato a Natascia, aveva capito tutto questo e piangeva sulla sua spalla con una dolorosa dolcezza. «Andiamo, andiamo da lui, Marie», disse Natascia, conducendola nella stanza accanto. La principessina Maria sollevò il viso, si asciugò gli occhi e si volse a Natascia. Sentiva che, parlando con lei, avrebbe saputo e compreso tutto. Natascia raccontò che in un primo tempo c'era stato pericolo per lo stato di infiammazione e le grandi sofferenze, ma che ciò era passato e il dottore temeva soltanto una cosa, la cancrena. Ma anche questo pericolo era passato. Quando erano giunti a Yaroslav, la ferita aveva cominciato a suppurare e il dottore aveva detto che la suppurazione poteva avere un corso regolare. Era sopravvenuta la febbre. Il dottore diceva che quella febbre non era pericolosa. Ma due giorni fa, disse Natascia, a un tratto è accaduto quello. Ella tratteneva i singhiozzi. Non so perché, ma voi vedrete. Vedrete voi in che stato è. Indebolito? Smagrito? Domandò la principessina. No, no, non questo. Non questo, ma peggio. Vedrete. Ah, Maria, è troppo buono. Non può vivere perché... Quando Natascia aprì la porta, lasciando passare innanzi a sé la principessina Maria, questa capì ciò che intendeva Natascia con le parole «Gli è accaduto due giorni fa». Capiva che questo significava che egli a un tratto s'era raddolcito e che questa dolcezza, questa rassegnazione, erano i segni della morte. Era steso su un divano, circondato da guanciali, avvolto in una veste da camera foderata di scoiattolo. Era magro e pallido. Una mano scarna, bianca, trasparente, teneva un fazzoletto. L'altra, con lievi movimenti delle dita, toccava i baffi sottili che erano cresciuti. I suoi occhi guardavano chi stava entrando. Vedendo il suo viso e incontrando il suo sguardo, la principessina Maria a un tratto rallentò il passo e sentì che le lacrime improvvisamente le si asciugavano e i singhiozzi cessavano. «Buongiorno, Marie. Come hai fatto ad arrivare fin qui?» domandò con una voce atona ed estranea come il suo sguardo. Se egli avesse gettato un grido disperato, quel grido avrebbe atterrito la principessina Maria meno del suono di quella voce. «E mi hai condotto Nikolushka?» disse egli con la stessa voce atona e con un visibile sforzo per ricordare. «Come va la tua salute ora?» disse la principessina Maria, meravigliandosi ella stessa di quello che diceva. «Questo, cara, bisogna domandarlo al dottore», disse egli, facendo ancora un visibile sforzo per essere affettuoso. La principessina Maria gli strinse la mano. A quella stretta di mano egli aggrottò impercettibilmente le sopracciglia, poi tacque, ed ella non sapeva che cosa dire. Allora capì che cosa gli era accaduto 2 giorni prima. Nelle parole, nel tono, specialmente nello sguardo di lui, uno sguardo freddo, quasi ostile, si sentiva quello straniarsi completo da ogni cosa umana che è tremendo per un uomo vivo. Visibilmente egli stentava a comprendere tutto quello che era vivo, ma insieme si sentiva che non comprendeva quello che era vivo, non perché mancasse di forza di comprensione, ma perché comprendeva qualcosa d'altro, che non è compreso dai vivi e non può esserlo, e che lo assorbiva tutto. «André, vuoi», disse a un tratto la principessina Maria con un tremito nella voce, «vuoi vedere Nikolushka? Si è ricordato sempre di te». Per la prima volta il principe Andrei ebbe un sorriso appena percettibile, ma la principessina Maria, che conosceva così bene la sua fisonomia, capì con terrore che quello non era un sorriso di gioia, né di tenerezza per il figlio, ma un tenue, mite sorriso di scherno per quell'ultimo mezzo che, nell'intenzione della principessina Maria, doveva servire a ricondurlo in sé. «Sì, sono molto lieto di vedere Nikolushka. Sta bene?» Quando condussero dal padre Nikolushka, che lo guardava spaventato ma senza piangere, perché nessuno piangeva, il principe Andrei lo baciò, ma si vedeva che non sapeva che cosa dirgli. Appena ebbero condotto via Nikolushka, la principessina Maria si avvicinò ancora una volta al fratello, lo baciò e, non avendo più la forza di trattenersi, si mise a piangere. Egli capì che ella piangeva perché Nikolushka sarebbe rimasto senza padre. Con un grande sforzo su se stesso, egli cercò di tornare indietro nella vita e di mettersi dal punto di vista degli altri. «Gli uccelli del cielo non seminano, non raccolgono, ma il padre li nutre», disse egli a se stesso, e avrebbe voluto dirlo anche alla principessina. «Ma no, loro comprenderebbero a modo loro, non comprenderebbero. Non possono capire che tutti questi sentimenti che sono loro cari, tutti questi pensieri che ci sembrano così importanti, invece non sono necessari. Non ci possiamo intendere». E tacque. Il principe Andrei non soltanto sapeva di dover morire, ma si sentiva morire. Sentiva d'essere già morto a metà. Egli aveva la coscienza di essere estraneo ad ogni cosa terrena e di sperimentare una lieta e strana facilità ad esistere. Senza fretta né agitazione aspettava ciò che gli sarebbe toccato. Quella cosa minacciosa, eterna, sconosciuta e lontana, la cui presenza non aveva mai cessato di sentire durante tutta la vita, ora gli era vicina. Prima aveva paura della fine. 2 volte aveva provato questo senso terribilmente tormentoso di paura della morte e ora non lo capiva più. La prima volta aveva provato questo sentimento mentre la granata girava come una trottola davanti a lui ed egli guardava le stoppie, i cespugli, il cielo e sapeva che davanti a lui c'era la morte. Quando era rientrato in sé dopo la ferita e nell'anima sua, come liberato dal peso della vita che lo tratteneva, era sbocciato in un istante quel fiore dell'amore eterno, libero, non legato a questa vita, egli già non temeva più la morte e non vi pensava più. In quelle ore di dolorosa solitudine e di semidelirio che aveva trascorse dopo la ferita, quanto più meditava su quel nuovo principio di amore eterno che gli si era rivelato, tanto più, senza nemmeno accorgersene, ripudiava la vita terrena. Amare tutto e tutti, sacrificarsi sempre per amare, significava non amare nessuno, significava non vivere di questa vita terrena. E quanto più si penetrava di questo principio d'amore, tanto più si staccava dalla vita, e tanto più pienamente distruggeva quella tremenda barriera che, quando manca l'amore, sta fra la vita e la morte. Quando, in quel primo tempo, si ricordava che doveva morire, diceva fra sé, «Che importa? Tanto meglio». Ma dopo quella notte in cui, nel suo semidelirio, gli era comparsa innanzi colei che egli desiderava, e quando, premendo la mano di lei sulle labbra, aveva pianto sommesse lacrime di gioia, l'amore per una donna s'era infiltrato inavvertito nel suo cuore e di nuovo l'aveva riattaccato alla vita. e pensieri lieti e tormentosi avevano cominciato a riprenderlo. La sua malattia faceva il suo corso fisico, ma ciò che Natascia chiamava «gli è accaduto» accadde 2 giorni prima dell'arrivo della principessina Maria. Era sera. Egli, come al solito dopo pranzo, era in uno stato leggermente febbrile e i suoi pensieri erano straordinariamente lucidi. Sonia sedeva presso la tavola. Egli si mise a sonnecchiare. A un tratto fu preso da un senso di gioia. «Ah, è lei che è entrata», pensò. E difatti, al posto di Sonia, s'era seduta allora allora Natascia, entrata a passi silenziosi. Da che ella lo assisteva, egli provava sempre questa sensazione fisica della sua presenza. Ella sedeva sulla poltrona, di fianco a lui, nascondendogli con la persona la luce della candela, e faceva la calza. Aveva imparato a fare la calza da quella volta che il principe Andrei le aveva detto che nessuno sa curare meglio i malati delle vecchie bambinaie che fanno la calza, e che nel fare la calza c'è qualcosa di calmante. Le sue dita sottili muovevano rapidamente i ferri che a tratti si urtavano fra loro, ed egli poteva vedere chiaramente il profilo pensieroso del viso chinato di lei. Ella fece un movimento, e il gomitolo le cadde dalle ginocchia. Ella si scosse, lo guardò, e riparando con la mano la candela, con un gesto cauto, svelto e preciso, si chinò, raccolse il gomitolo e si rimise a sedere nella stessa posizione. Egli la guardava senza muoversi, e si accorse che dopo quel movimento ella avrebbe dovuto respirare forte, ma non si decideva a farlo e tratteneva con precauzione il respiro. Egli pensava ora, guardandola e ascoltando il leggero rumore dei ferri, «Possibile che la sorte ci abbia così stranamente riuniti soltanto perché io debba morire? Possibile che la verità della vita mi si sia rivelata soltanto perché io viva nella menzogna? Io la amo più di tutto al mondo, ma che posso fare se l'amo?» disse egli, e ad un tratto si mise involontariamente a gemere per l'abitudine che ne aveva presa nel tempo delle sue sofferenze. Udendo questo suono, Natascia posò la calza, si curvò dalla sua parte e, scorgendo i suoi occhi luccicanti, gli si avvicinò con passo leggero e si chinò su di lui. «Non dormite?» «No, da un pezzo vi sto guardando. Ho sentito quando siete entrata. Nessuno come voi mi dà questa pace così dolce, questa luce. Avrei voglia di piangere dalla gioia. Natascia, io vi amo troppo, più di tutto al mondo. Ed io?» Ella si volse un momento in là. «Perché troppo?» domandò. «Perché troppo? Ditemi quel che pensate, quel che sentite nell'anima vostra. Potrò vivere? Che ve ne pare?» «Ne sono sicura, ne sono sicura!» gridò quasi Natascia, prendendogli le due mani con gesto appassionato. Egli tacque un poco. «Come sarebbe bello!» E presa la mano di lei, la baciò. Natascia era felice ma sconvolta, e subito si ricordò che questo era proibito, che egli aveva bisogno di calma. «E intanto non avete dormito», disse, reprimendo la sua gioia. «Sforzatevi di prendere sonno, ve ne prego». Egli lasciò andare la sua mano, dopo averla stretta, ed ella tornò verso la candela e sedette di nuovo nell'atteggiamento di prima. 2 volte si volse a guardarlo, e gli occhi di lui le sfavillarono incontro. Ella si assegnò il compito di fare tanti giri di calza e si disse che non si sarebbe voltata finché non li avesse finiti. Difatti, poco dopo, egli chiuse gli occhi e si addormentò. In sogno si vide disteso nella medesima camera dove realmente giaceva, ma non ferito, bensì sano. Molte persone insignificanti, indifferenti, apparivano davanti al principe Andrei. Egli parlava con loro, discuteva di cose inutili. Esse si preparavano ad andare in qualche posto. Il principe Andrei si ricordava confusamente che tutto ciò non aveva importanza e che egli aveva altre cure ben più gravi, ma seguitava a dire loro parole frivole e argute, facendole meravigliare. Dopo poco, inavvertitamente, tutte queste persone cominciavano a sparire e tutto cedeva il posto a una sola questione: come chiudere la porta. Si alzava e andava verso la porta per spingere il chiavistello e chiuderla. Dal riuscire o non riuscire a chiudere la porta dipendeva tutto. Egli andava, si affrettava, ma le sue gambe non si muovevano ed egli sapeva che non sarebbe riuscito a chiudere la porta, ma pure tendeva disperatamente tutte le sue forze, e una tormentosa paura lo assaliva, e questa paura era la paura della morte. Dietro la porta stava quella cosa. Mentre egli si trascinava impotente, ma al sicuro, verso la porta, questa cosa tremenda stava già dall'altra parte e premeva e spingeva. Qualcosa di non umano. La morte spingeva la porta e bisognava trattenerla. Egli si aggrappava alla porta, tendeva le ultime forze. Chiuderla ormai era impossibile. Almeno avesse potuto trattenerla. Ma le sue forze erano deboli, impacciate, e spinta da quella cosa orribile, la porta si apriva e di nuovo si richiudeva. Ancora una volta, quella cosa spingeva da fuori. Gli ultimi sovrumani sforzi erano vani e i due battenti si aprivano senza rumore. Quella cosa entra ed è la morte. E il principe Andrei morì. Ma nel momento in cui moriva, il principe Andrei si ricordava di dormire. E in quello stesso momento fece uno sforzo su di sé e si svegliò. Sì, era la morte. Sono morto. Mi sono svegliato. Sì, la morte è un risveglio. E ad un tratto l'anima sua si illuminò e il velo, che fino a quel momento nascondeva l'ignoto, si sollevò davanti al suo sguardo spirituale. Egli sentì come la liberazione della forza che prima era prigioniera in lui. E quella strana facilità che da quel momento non lo lasciò più. Quando egli, svegliandosi in quel sudore freddo, si mosse sul divano, Natascia gli si avvicinò e domandò che cosa avesse. Egli non le rispose e, senza capire, la guardò con uno sguardo strano. Era questo quello che gli era accaduto 2 giorni prima che giungesse la principessina Maria. Da quel giorno cominciò per il principe Andrei, insieme col risveglio dal sonno, il risveglio dalla vita. Non v'era nulla di pauroso né di brusco in questo risveglio, relativamente lento. Gli ultimi giorni e le ultime ore di lui scorsero come di consueto, semplicemente. La principessina Maria e Natascia, che non si scostavano da lui, lo sentivano. Non piangevano, non rabbrividivano, e negli ultimi tempi, sentendo questo, non vegliavano più lui. Egli non era più lui, se n'era andato lontano da loro, ma il più vicino ricordo di lui, il suo corpo. Il sentimento di entrambe era così forte che su loro non agiva il tremendo lato esteriore della morte, ed esse non credevano necessario inacerbire il proprio dolore. Non piangevano, né davanti a lui né quando erano sole, e fra loro non parlavano mai di lui. Sentivano di non poter esprimere con parole ciò che avevano compreso. Tutte e due vedevano come egli sempre più profondamente, in modo lento e tranquillo, si staccasse da loro e sparisse lontano, lontano, e tutte e due sapevano che così doveva essere e che così era bene. Egli si confessò e si comunicò, e tutti vennero a dirgli addio. Quando gli condussero il figlio, gli posò in fronte le labbra e si volse in là, non perché sentisse pena e pietà. La principessina Maria e Natascia lo capivano, ma solo perché pensava che non si voleva altro da lui, e quando gli dissero di dargli la sua benedizione, fece quanto gli era chiesto e si guardò intorno come per domandare se non occorresse fare qualche altra cosa. Quando sopravvennero gli ultimi sussulti del corpo abbandonato dallo spirito, la principessina Maria e Natascia erano presenti. «È finito», disse la principessina Maria, quando il corpo era già steso innanzi a loro, immobile, da alcuni minuti e cominciava a raffreddarsi. Natascia si avvicinò, guardò gli occhi del morto e si affrettò a chiuderli. Li chiuse e non li baciò, ma pose le labbra su quello che era il più vicino ricordo di lui. «Dov'è andato? Dov'è ora?» Quando il corpo lavato, vestito, giacque nella bara, sulla tavola, tutti andarono a salutarlo e tutti piangevano. Nicolushka piangeva per il doloroso stupore che gli lacerava il cuore. La contessa e Sonia piangevano per la pietà di Natascia e perché egli non era più. Il vecchio conte piangeva perché presto, lo sentiva, sarebbe toccato anche a lui di fare lo stesso tremendo passo. Natascia e la principessina Maria ora piangevano anch'esse, ma non piangevano per il loro personale dolore. Piangevano per la reverente commozione che aveva preso l'anima loro mentre si rendevano consapevoli del semplice e solenne mistero della morte compiutosi davanti a loro.